avvezza, senza rendersene conto, a situare la qualità mondana nell'animo delle persone, la principessa d'Épinoy fu costretta a disincarnare Madame Swann e a reincarnarla in una donna elegante. L'ignoranza circa la vita reale di donne che non la sbandierano sui giornali stende così su certe posizioni, contribuendo in tal modo a diversificare i salotti, un velo di mistero. Nel caso di Odette, alcuni esponenti della migliore società, curiosi di conoscere Bergotte, avevano cominciato con l'andare a pranzo da lei in forma rigorosamente privata. Madame Swann aveva avuto il tatto, acquisito da poco, di non menarne vanto. I suoi ospiti trovavano in quella casa, reminiscenza forse del piccolo clan le cui tradizioni Odette aveva perpetuate anche dopo lo scisma, il loro posto a tavola, eccetera. Odette li portava con Bergotte, che tale usanza finiva ad ammazzare, alle prime di qualche rilievo. Questi uomini parlarono di lei ad alcune donne del loro mondo capaci di interessarsi a quella grande novità. Convinte che Odette, intima di Bergotte, avesse più o meno collaborato alla sua opera letteraria, esse la credevano mille volte più intelligente delle più notevoli donne del Faubourg. Per la stessa ragione per cui riponevano ogni loro speranza politica in certi solidi repubblicani come Dumay e de Chanel, mentre prevedevano lo sfacelo della Francia, qualora ci si fosse affidati ai monarchici che venivano a pranzo a casa loro, i Charette, i Doudeville, eccetera. Questa svolta nella fortuna mondana di Odette si attuava da parte sua con una discrezione che la rendeva più sicura e più rapida, senza che nulla trasparisse agli occhi di un pubblico incline a basarsi sulle cronache del Galois per giudicare dei progressi o della decadenza di un salotto. Così fu un vero colpo di scena quando, alla prova generale di una commedia di Bergotte, allestita in uno dei teatri più eleganti a beneficio di un'opera caritativa, si vide che nel palco centrale, quello dell'autore, accanto a Madame Swann, prendeva posto Madame de Marsan, e colei che, grazie al progressivo eclissarsi della duchessa di Gaumont, sazia di onori e declinante per risparmio d'energia, stava diventando la numero uno, la regina dell'epoca, la contessa Molé. Non sospettavamo nemmeno che avesse cominciato a salire, si disse di Odette quando la contessa fu vista entrare nel palco, e lei era già in cima. Madame Swann poteva dunque credere che io mi riavvicinassi a sua figlia per snobismo. Nonostante la presenza delle sue brillanti amiche, Odette ascoltò la commedia con estrema attenzione, come se fosse lì solo per quello, allo stesso modo che, una volta, attraversava il Bois per igiene e per fare esercizio. Alcuni uomini, assai meno premurosi un tempo nei suoi confronti, s'affrettarono al palco, disturbando tutti gli spettatori per avvicinare, appesi alla sua mano, la cerchia imponente che l'attorniava. Odette, con un sorriso in cui la gentilezza prevaleva ancora sull'ironia, rispondeva pazientemente alle loro domande, affettando una calma quasi incredibile e forse sincera, giacché quell'esibizione non era che l'esibizione tardiva di un'intimità abituale e nascosta per discrezione. Dietro quelle tre dame che attiravano ogni sguardo vi era Bergotte, circondato dal principe di Agrigento, dal conte Louis de Turenne e dal marchese di Breuté. E non è arduo capire come per uomini siffatti, che erano ricevuti ovunque e non potevano aspettarsi un incremento di prestigio se non da ricerche di originalità, la dimostrazione del proprio valore che si credevano di fare lasciandosi attrarre da una padrona di casa di alta reputazione intellettuale, nel cui salotto contavano di incontrare tutti i drammaturghi e romanzieri alla moda, fosse più eccitante e vitale di quelle serate dalla principessa di Gaumont che senza nuovi programmi né nuove attrattive si susseguivano da anni e anni, più o meno simili alla serata che abbiamo così diffusamente descritta. In quel gran mondo, quello dei Gaumont, verso il quale la curiosità cominciava un poco a scemare, le nuove mode intellettuali non si incarnavano in svaghi capaci di rispecchiarle, come nelle commediole scritte da Bergotte per Madame Swann, come in quei veri e propri comitati di salute pubblica, semmai l'alta società si fosse occupata dell'affare Dreyfus, che vedevano riuniti in casa di Madame Verdurin, Picard, Clemenceau, Zola, Renac e Laborie. Anche Gilbert giovava al prestigio mondano della madre, giacché uno zio di Swann aveva appena lasciato alla ragazza un'ottantina di milioni e di conseguenza il Faubourg Saint-Germain aveva cominciato a prenderla in considerazione. Il rovescio della medaglia era che Swann, d'altronde in fin di vita, aveva idee dreyfusiste, ma nemmeno questo nuoceva a sua moglie, anzi, le tornava utile. Non le nuoceva perché tutti dicevano: è rimbambito, un povero idiota, lasciamolo perdere. Solo sua moglie conta e lei è deliziosa. Ma il dreyfusismo di Swann giocava addirittura a favore di Odette. Abbandonata a se stessa, si sarebbe forse concessa nei confronti delle donne in vista delle avance che l'avrebbero perduta. Mentre, le sere in cui trascinava il marito a qualche pranzo nel Faubourg Saint-Germain, Swann, che se ne stava scontrosamente in disparte, se vedeva che Odette si faceva presentare a qualche dama nazionalista, la ammoniva ad alta voce, senza troppi scrupoli. «Andiamo, Odette, non fate pazzie. Vi prego di starvene buona. Sarebbe una bassezza da parte vostra farvi presentare a un antisemita. Ve lo proibisco». Le persone del gran mondo che tutti cercano non sono abituate né a tanta fierezza né a tanta maleducazione. Per la prima volta vedevano qualcuno credersi di più di loro. Le scenate di Swann passavano di bocca in bocca e i biglietti da visita piovevano in casa di sua moglie. Quando Odette andava a trovare Madame d'Arpajon, intorno a lei si creava una corrente di viva, simpatica curiosità. «Non vi dispiace che ve l'abbia presentata?» chiedeva Madame d'Arpajon. «È una creatura quanto mai gradevole. È stata Marie de Marsan a farmela conoscere. Ma no, al contrario, pare che sia straordinariamente intelligente e deliziosa. Anzi, desideravo proprio incontrarla. Potete darmi il suo indirizzo?» Madame d'Arpajon diceva a Madame Swann quanto si fosse divertita da lei due sere prima e le confidava d'aver disertato con gioia per lei il ricevimento di Madame de Saint-Duvert. Ed era vero, perché preferire Madame Swann voleva dire mostrarsi intelligente, come andare al concerto invece che a un tè. Ma se Madame de Saint-Duvert andava da Madame d'Arpajon quando c'era anche Odette, siccome Madame de Saint-Duvert era molto snob e Madame d'Arpajon, pur trattandola piuttosto dall'alto in basso, teneva le sue feste, Madame d'Arpajon non presentava Odette, perché Madame de Saint-Duvert non sapesse chi era. La marchesa si figurava che fosse qualche principessa che usciva di rado, dato che non l'aveva mai vista. Protraeva la sua visita, rispondeva indirettamente alle frasi di Odette, ma Madame d'Arpajon era incrollabile. E quando Madame de Saint-Duvert, sconfitta, se ne andava, «Non vi ho presentata», spiegava la padrona di casa a Odette, «perché non è molto piacevole andare a casa sua e lei non fa che invitare, non ve ne sareste più districata». «Oh, non importa», assicurava Odette, non senza rimpianto. Ma restava con l'idea che non fosse piacevole andare da Madame de Saint-Duvert, il che in una certa misura era vero, e ne concludeva d'avere una posizione assai superiore a quella di Madame de Saint-Duvert, sebbene la marchesa ne avesse una elevatissima e lei per il momento nessuna. Odette non se ne rendeva conto, e benché tutte le amiche di Madame de Gourmand frequentassero Madame d'Arpajon, quando quest'ultima la invitava, lei diceva, pretendendo di avere qualche scrupolo: «Da Madame d'Arpajon ci vado, però mi giudicherete molto all'antica, mi dà un certo fastidio per via di Madame de Gourmand, che del resto non conosceva». Gli uomini distinti pensavano che se Madame Swann aveva poche conoscenze nel gran mondo, doveva essere perché si trattava di una donna superiore, probabilmente una grande musicista, e che andare a casa sua sarebbe stato una specie di titolo extramondano, come per un duca essere dottore in scienze. le donne irrimediabilmente mediocri erano attirate verso Odette da una ragione di segno opposto. Sentendo che andava ai concerti Colon e si professava wagneriana, ne deducevano che fosse una mattacchiona e l'idea di conoscerla le eccitava. Ma incerte riguardo alla loro propria posizione, temevano di compromettersi pubblicamente mostrandosi in dimestichezza con Odette. E se a un concerto benefico scorgevano Madame Swann, giravano la testa da un'altra parte, ritenendo inammissibile salutare, sotto gli occhi di Madame de Rochechouart, una donna che era capacissima d'essere andata a Bayreuth, cioè d'averne fatte di tutti i colori. Ogni persona, quando è in visita da un'altra, si trasforma. Per non parlare delle meravigliose metamorfosi che avvenivano in casa delle fate, nel salotto di Madame Swann, il signor di Breauté, bruscamente valorizzato dall'assenza del suo abituale entourage, dall'aria compiaciuta che ostentava, quasi che, invece d'andare a una festa, fosse rimasto a casa e avesse inforcato gli occhiali per leggere la Revue de Dumont, e dal rito misterioso che aveva l'aria di celebrare facendo visita a Odette, il signor di Breauté sembrava anche lui un uomo nuovo. Non so cosa avrei dato per vedere quali alterazioni sarebbero toccate in quel nuovo ambiente alla duchessa di Montmorency-Luxembourg. Ma era una delle persone cui nessuno avrebbe mai potuto presentare Odette. Madame de Montmorency, che era molto più benevola con Orléans di quanto questa non lo fosse con lei, mi lasciava esterrefatto, dicendomi di Madame de Guermand: «Conosce persone di spirito, non c'è nessuno che non le voglia bene. Sono convinta che, se fosse stata un po' più costante, sarebbe riuscita a farsi un salotto. La verità è che non ci teneva e ha perfettamente ragione, è felice così, la cercano tutti». Se Madame de Guermand non aveva un salotto, che cosa mai poteva essere allora un salotto? Lo sbalordimento causatomi da siffatte parole fu pari a quello che io stesso provocai a Madame de Guermand dicendole che mi piaceva andare da Madame de Montmorency. Per Orléans era una vecchia cretina. Ancora io, osservava, non posso farne a meno, è mia zia, ma voi? Non è neanche capace di attirare le persone piacevoli. Madame de Guermand non si rendeva conto che le persone piacevoli mi lasciavano freddo, che quando lei diceva salotto Arpajon, io vedevo una farfalla gialla, e salotto Swann, Madame Swann riceveva d'inverno fra le 6 e le 7, una farfalla nera con le ali ovattate di neve. Quest'ultimo salotto, che pure non era tale, la duchessa lo giudicava, sebbene inaccessibile per lei, scusabile per me, in virtù delle persone di spirito. Ma Madame de Luxembourg, se avessi già prodotto qualcosa di cui si fosse parlato, avrebbe concluso che una parte di snobismo può convivere col talento. La condussi invece al colmo della delusione, confessandole che non andavo da Madame de Montmorency, come lei aveva supposto, per prendere appunti e studiare l'ambiente. Madame de Guermand, del resto, aveva preso un abbaglio non più grave di quello dei romanzieri mondani che analizzano crudamente dall'esterno il comportamento di uno snob, o preteso tale, ma non si calano mai dentro di lui, all'epoca in cui fiorisce nell'immaginazione tutta una primavera sociale. Io stesso, quando cercai di capire il grande piacere che provavo andando da Madame de Montmorency, rimasi un po' deluso. Abitava, nel Faubourg Saint-Germain, in un'antica dimora piena di padiglioni, intervallati da piccoli giardini. Sotto la volta, una statuetta che dicevano di Falconet rappresentava una sorgente dalla quale stillava, in effetti, un'umidità perenne. Un po' più in là, la portiera, con gli occhi sempre arrossati da dispiaceri o nevrastenie, emicranie o raffreddori, faceva, senza rispondervi, un vago gesto per indicare che la duchessa era in casa, mentre lasciava che qualche lacrima cadendo dalle palpebre, sgocciolasse sopra una ciotola di «Non ti scordar di me». Il piacere che avvertivo alla vista della statuetta, capace di evocarmi un piccolo giardiniere in gesso di un giardino di Combray, non era nulla in confronto a quello ispiratomi dallo scalone umido e sonoro, gremito d'echi come certi vecchi stabilimenti termali, dei vasi di cinerarie, azzurro su azzurro, nell'anticamera e soprattutto dal tintinnio del campanello identico a quello della camera di Eulalie. Quel tintinnio portava all'acme il mio entusiasmo, ma poiché mi sembrava troppo umile per poterlo spiegare a Madame de Montmorency, la grand'ama mi vedeva sempre immerso in un'estasi di cui non le fu mai possibile scoprire la ragione.